prova ad allargare la tua visuale. Fatti una riunione che sia spirituale. Scava dentro te dove puoi arrivare, fino a quello che potresti trovare. Prima di fallire, prima di impazzire, vedere quanto si può sbagliare. In questo posto loro possono giudicare, però quasi sempre lo fanno male. Stabilisco il contatto, vedo che è un pacco. Chi era canarino oggi è diventato falco. Cammina sopra l'erba che sta sotto l'asfalto. 100 chilometri senza muovere un arto. Non firma niente, nessun contratto. Non muore mai, ha più vite di un gatto. L'ultimo patto col diavolo l'ha fatto. Non è stupido e non è neanche matto. Garantire niente, se c'è qualcuno che dice che è presente, non dice la verità o la dice raramente, non lo scovi manco fosse un latitante, qualcuno che ti dà una mano fra tante, mi serve aiuto, magari una badante, io vado verso l'alto come le piante, cammino solamente sulle mie gambe. In questo posto non c'è serenità, si parla solo con la gestualità, in questo posto, in questa vita qua. Se c'è qualcosa non ritornerà, non ti piangere addosso, non ti trovare a dire non posso, non ti può fermare il primo fosso, anche se so che nessuno ha mai risposto. Da qui è impossibile vedere qualcosa, la fotomodella rimane in posa, il poeta in casa scrive la prosa, sulla giornata che inizia nuvolosa, già fatto le prove per il 2009, ma con il sole qua sembra che piove, dovrai tentare altrove, lasciando da parte la tua opinione, il futuro io non lo immagino, io son seduto qui mentre mi agito, se c'è un appuntamento mi cambio l'abito, in questo mio campo non c'è arbitro. L'Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti, qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore, qui ho anche appreso la passione per la libertà, ho scelto di scendere in campo. In questo posto non c'è serenità, si parla solo con la gestualità. In questo posto, in questa vita qua, se c'è qualcosa non ritornerà. Non ti piangere addosso, non ti trovare a dire non posso. Non ti può fermare il primo fosso, anche se so che nessuno ha mai risposto.